Ciao, io sono Laura Voltolina e questa newsletter è La stanza degli ospiti. Ho una stanza degli ospiti, ci dormono gli amici che vengono a trovarmi. È anche la mia stanza yoga, da lì trasmetto le dirette degli incontri online, ad esempio è la stanza che vedi nelle registrazioni dei moduli della bussola interiore. È anche la stanza nella quale accendo candele, scrivo e medito. Quindi gli ospiti che accolgo sono molto numerosi, gli amici, certo, ma ci sono anche le mie asana e i momenti scomodi in cui è proprio ora di meditare. O di sdraiarmi per terra 10 minuti, di sciogliere quella tensione, di ascoltare quel groppo in gola, prendere quella decisione, lasciare andare un'idea inadeguata e accoglierne una nuova di zecca. La stanza degli ospiti è uno spazio. Può essere uno spazio fisico con pareti e finestre, certo, prima di tutto però è uno spazio interiore, è presenza. La stanza degli ospiti è il luogo interno in cui ogni giorno inizia. È il luogo dei sogni e delle intuizioni. È il luogo degli arrivi e delle partenze. Ho imparato che è meglio invitare a entrare tutti gli ospiti che arrivano, anche quelli pesanti che se ne stanno in giro più dei 3 fatidici giorni dopo i quali si dice che somiglino al pesce ormai maleodorante. Ad esempio certe tristezze o certe incertezze. Perché quella stanza non ha davvero una porta e farci da buttafuori mi porta via energia e concentrazione. Mi rendo conto che in fondo ogni ospite è una guida. E fa spazio, ormai questo lo so, ad altri ospiti, deliziosi, luminosi. La consapevolezza, ad esempio, arriva sempre come un ospite inaspettato. E arriva solo se le ho già fatto spazio. Come si fa? Silenzia il cellulare. E poi lì dove ti trovi, chiudi gli occhi, ma fallo delicatamente, cioè senza strizzare le palpebre. Senti gli appoggi sui supporti, ad esempio. Saranno i glutei o i piedi se sei seduta o seduto, oppure soltanto i piedi se sei appunto in piedi. Mano a mano che senti gli appoggi, ti accorgerai che la testa può essere leggera. Ecco, lascia che la testa sia leggera. Rilascia le tensioni della bocca e magari prima fai uno sbadiglio. Adesso, dall'interno, ascolta il tuo respiro. Prova a rispondere a queste domande. Quanto spazio ti sembra di occupare dall'interno? Ti sembra di spingere per occupare il tuo spazio? O magari stare nel tuo spazio in questo momento ti viene naturale? Come ti senti in relazione alla terra, al supporto? E in relazione al cielo, allo spazio? Se ti va, raccontami, sono molto curiosa di ricevere le tue condivisioni. Grazie. Gli inizi sono così, pieni di inerzie, perché per mettere in moto una giornata, un progetto, un cambiamento, certe volte perfino un respiro, chiede di smuovere resistenze. Chiede di osservare gli arrivi nella stanza degli ospiti con curiosità e leggerezza. Lo facciamo insieme. Da martedì 6 febbraio, in principio, le infinite possibilità di ciò che inizia. Cominciamo il percorso Yoga e Mitologia Online per liberare i nostri inizi, di qualsiasi incipit si tratti, dal peso delle inerzie. Memo, c'è una promozione per chi partecipa sia al percorso di febbraio che a quello di aprile. Altro memo, ci sono già diversi posti riservati, quindi scrivimi per prenotare il tuo. Non puoi partecipare alle dirette? Avrai le registrazioni a disposizione per una settimana. Contattami. Iniziamo la primavera insieme, in presenza? Dal 15 al 17 marzo, Radici per Volare, weekend yoga sulle colline toscane. È il primo ritiro yoga dell'anno. È riservato al massimo a 9 partecipanti. È ospitato al Podere Pereto, che ha organizzato una nuova e meravigliosa sala. È il momento giusto, nel posto giusto, per scoprire che radici e ali hanno la stessa importanza. Pronti a sperimentare? Scrivimi per prenotare il tuo posto. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di J.R. Gendlers dal suo Book of Qualities. Il coraggio ha radici. Dorme su un futon sul pavimento e vive vicina a terra. Coraggio ti guarda dritta negli occhi. Non ha paura di piangere o di pregare, anche quando non è sicura di quale sia la divinità a cui si sta rivolgendo. Quando Coraggio cammina, è chiaro che ha fatto tutto il percorso dal sentirsi sola alla solitudine. Chi mi ha detto che Coraggio è austera non stava esagerando. Solo si sono scordati di dire che è gentile. Un abbraccio grande, Laura.